non me l'ha dato, meno male che ce l'aveva lui. Sì, già ce li ha quei pezzi lì. Gigi ce li ha quei pezzi. È meglio così, meglio così. Stai usando quello, non tu? No, sto usando quello di camera, camera da letto. Ah, ok. No, sto facendo bene, sto facendo bene. Va bene così, va bene così. Vediamo se c'è qualcuno. Avanti, qua, Benelli 12, buonasera, in compagnia di Antonio di Gavino, coordinate Porto Torres. Io ci sono, ma non parlo. Ui, buonasera. Certo, vabbè, sta a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ma l'altro giorno ho passato lì dove c'è, per andare lì alla fine, cioè dalla strada di risorso, vabbè, e ho visto uno che va via un po' di antenne in un terreno. Quello è Richard, un radioamatore, diciamo, è di... mi è venuto da poco. Poco più avanti ci sono io, Anto, non so se hai visto il traliccio sul... ma la campagna, la casa dopo, un traliccio alto con una grazione. Slovacco, slovacco! Ma in realtà, ma si è fatto la piantagione a giudizio. Sì, sono passato... mi sono fermato un attimino, poi dopo sono tornato a ripartire. Ha giudizio chissà cosa, ha giudizio. Ha detto cosa ha piantato, l'antenne. E lì ci sono io, a fianco ci sono io, non so se hai visto il traliccio o l'antenna. Non ci ho notato, lo sai. Segno buono, sì. Vai. Allora, un po' ammacciato. Ammacciato, ammacciato, sì. Segno buono. Ci passa prima lui o poi io. Allora, a tu, non è che conosci qualcuno che sta vendendo qualche casco da cross? Ce l'aveva un amico mio, ce l'aveva, cioè un amico mio, un amico di un amico mio, però non so, forse li ha venduti. Non ho capito. Va bene, va bene. Sono ghi di mezzo che sono diversi da quelli normali, cioè da quelli classici di moto, sono un pochettino diversi. No, va bene, lo sto cercando per mio figlio, ma taglia piccola, se vai da BC Motors lo prendimi, lo trovi a prezzi buoni. Insomma, prezzo buono, partono dai 90, sino ai 170, 200, 500, dipende. No, 500 è esagerato, 300, 250, dipende, dai, cosa vuoi realizzare, a me mi serve giusto per gioco. Sarebbe biglia, prendere uno per iniziare costi di meno di tutti. Vabbè, ma ci vuole anche la, insomma, deve essere per quella moto lì, capito? Lo so, chi la sta guidando, tuo figlio? Cosa? La guida tuo figlio? Cosa guida? È un pit bike 125. Già cammina, già cammina. Tanto cosa hai detto che non ho sentito, che stavo facendo altra cosa? Ho detto due tempi, chissà, già cammina già. No, quattro tempi. Con la mia ci sono sceso a Tintino. Bel tragitto. Ho fatto un platamona, posso dormire a Tintino. E poi ho messo. E mi ho fatto una bella. Come si dice? Ho fatto una bella passeggiata. Sono arrivato a Porto San Nicola. E poi dopo Porto San Nicola, 12 km a Tintino. Vabbè. bisogna andare, bisogna farla usare la moto. No, io sono andato al lago di Coso. Come cazzo si chiama, Gavito? Il lago di? Lago Modeo. No, dai, lì per andare al Ghero, lago, ma me ne dimentico sempre, gà. Lago di Barras, di Imbarras. A Barras, sì, lago di Barras. Barras. E niente, stavo giocando con la motoretta lì. Star Barras. Che di una giugana biglio si fa la Santa Teresa. Sì, più di figli, barone. Ah, putti dire che già arrivo, tranquillo. Tranquillo che già arrivo. Che sto andando, ho fatto 100 km, sto andando a Santa Maria Coghinas. Quello è Santa Teresa è più in là. Ah, ma arrivo un mattessi, all'Isola Rossa, cosa. Benzina avevo. E che c'è truccata, non ti preoccupare. Antonio. Avvicinate un pochino il mic alla bocca, che tra te e Tino c'è una differenza, a me ammazzendi, mi fa scendere i vetri, quando tra te e lui devo stare, alza, allora con te devo mettere il volume a 6 e continuo devo metterlo a 1,5, se no mi spacca i vetri, quel maledetto. Sto cercando un microfono per questo, non è a Fusaro. Non ne ha. Devo trovare un buon microfono per far pilotare bene questa radio. Vabbè. Lo sto cercando, lo sto. Vabbè, prenditi un più 5, hai trovato un giusto compromesso. Alla fine, Bigliua, però in camera da letto. A me in camera da letto ci vuole. Un microfono che, cioè, che non sia su gasino. Vabbè, ma come ha detto l'amico mio, voglio dire, la camera da letto non è così piccola, no? Già è grande, ci sta il microfono. Se accelerendi rossi, Giosso, che te mo prende il gasino. Però devo metterlo dentro il comodino, capito? Deve starci, cioè, bisogna prendere un microfono palmare che funzioni bene, che spinga. Vabbè, c'è anche il palmare comunque amplificato, se ti interessa. E capirà? Bisogna ordinarlo, bisogna vedere un pochino, ma già lo trovi. Sì, lo devo comprare uno. Lo devo comprare. Devo cercare, cioè, appena che adesso ritiro i soldi, l'ho comprato, ho venuto da Eva. Vabbè, anche perché sembra così, ma serve. Ma Pomponio la c'è? Oh, cosa sta pompando? Canutti. C'era sino a poco fa, Gavi. Perché deve essere sta pompando un canotto. Popo, aio prova che su BRM, maledetto. Maniaco. Ma Gavi, ma voi alla festa grande dovete fare Noemi, no? No, io alla festa grande devo andare a chiusca e prendermi un bel di birrette. Antu. No, non devo fare di concerti alla festa grande. Siamo liberi. Liberi e felici come farfalle. No, assolutamente. Devo lavorare sabato e domenica. Sabato siamo a Olbia con Raf e domenica a Vidalba con Raf. E poi festa grande, liberi e felici. Più che altro liberi, non felici. Mi tirerò di qualche mina ai chioschi. Già visto che buruio mi faro verso le 7 e faro. Già, c'è chi via mare, perché poi devo fare la guardia di notte. Ma perché chi c'è? Ma non c'è coso a. C'è Cristian Chessa con noi, c'è Rockhouse. No, noi non lo facciamo. Cristian Chessa sicuramente. E voi non avete tazenda il giorno dopo? Sì, già. Quindi non ci siete. No, liberi, festa grande, liberi, liberi, liberi. Mi sta batte domenica e poi se esce qualcosa, aspetta, è sposto la sedia. E va bene così, va bene così. Sì, Anto, prenditelo microfono amplificato per quella radio, che va bene così, esce un pochino più, perché c'è una differenza di modulazione, non è differente, proprio un abisso. Purtroppo è così, perché non me lo compro così. Cazzo, mi ricordo una volta avevo letto Raff, ma può essere a Luogo Santo o da qualche altro, l'anno scorso o da qualche altra parte. Cosa? Raff. Non ti ho capito, Anto, Raff? Sì, che l'avete fatto in quale, avevo letto il manifesto, o forse alla Nusè, che prima siamo andati a fare una serata e poi ce l'avete voi. No, mi sono trovato l'anno scorso con un gesuino a Carloforte, che loro stavano lavorando per il girotonno e noi stavamo lavorando per i nomadi e per Raff il giorno dopo, e ho trovato di lì a gesuino. Ma mi ha detto che chissà non vedeva andare, mi ha detto, dice, perché il budget è poco, bomba, ma vaffa Napoli. Ah, non lo so, noi quest'anno a Carloforte dobbiamo lavorare con Elettra Lamborghini e con Umberto Tuzzi, e siamo il 31 e 1, o il 30, no, il 30 e l'1, abbiamo il 30 Lamborghini e l'1 il 1 giugno, il 31 il 30 maggio Elettra Lamborghini, il 1 giugno Umberto Tuzzi, di lì al girotonno. Ma ci deve essere anche sicuramente Rock House, perché hanno, diciamo, loro fanno la manifestazione. Non ho capito nulla, non ho capito niente cosa vuole fare. Dice che il budget è poco, mi hanno detto. Boh, non lo so, io di budget non so, il mio Antu. Quello degli altri non lo so. Sì, noi siamo lì, partiamo il 28 e rientriamo il 2. Sì, il 2 so che c'è qualche altra cosa, ma veramente è robetta così, perché a me mi ha detto che il 2 deve andare Edo, ha detto che è sempre così, se, cioè sempre, vabbè, ha detto un paio di battute, gli ho detto, perché a me quando non lavoro mi si girano i coglioni, la verità, ma proprio a mille, la gioco tutte le battute, la gioco, devo andare un tecnico luce, un tecnico audio, via, c'è poco corso, ho pensato che era una seratuccia così, sicuramente così. Allora, stavo volando, aprendo la porta, invece poi ho dovuto dare anche da mangiare. Sì, no, vabbè, quello è normality. Sì, Antu, è un problema. Sì, oggi mi è successa una cosa bruttissima, infatti ho preso e ho smontato tutto. Tipo? L'ho trovato una zecca dentro casa. Aia, vabbè, tu hai un bel erba, che... No, è già tagliata. Quella è entrata, quel gatto maledetto, schifoso. Capita. Mettigli i collari. Ho preso la medicina, un litro di medicina a 36 euro. Ne ho fatto 3 litri al momento, meglio lo spago, l'ho data tutto attorno alla casa, nella campagna, e niente, vediamo un pochino, perché i cani non ne hanno, li ho controllati tutti quanti e quello è il gatto, quello è il gatto, come è entrato sicuramente ce l'aveva. Ma il problema non sono io, il problema è il mio vicino che non taglia erba, non fa niente, è un pezzente schifoso. Adesso qualche giorno prendo, salto il muretto, salto la recinzione, prendo il raserba e taglio e già la metto da una parte, perché non si può andare avanti così. E se qua dovesse succedere qualcosa di fuoco è un casino. Quindi adesso questa settimana no, però settimana prossima secondo me salto, e a voi che mi diga è saltato, lo frusta con la corda del cespugliatore a manetta, però esatto, proprio lo prendo il decespugliatore a palla e glielo passo in faccia, glielo passo nella schiena, così sembra che l'hanno fruttato. Ma porca miseria, quando mai non pigli un decespugliatore e rubassi? No, a palla, metto a manetta, gli metto una fascetta e glielo passo nella schiena. Casotto, vabbè, purtroppo sono quelle persone che magari non hanno tempo. Ma se lo mandano un attimo un vero compagno. Ah beh. Sì. Vabbè. Speriamo mai succeda. Vai tu. Gaffa. Si non tagliano l'erba, però se non tagliano l'erba è un casino. Se cazzo non ti entra tanta la zecca di dentro e non andava. E mi pure no che crescende qua sotto. Ah va. Ma che si di non va giù tempo, ma fra poco bisogna del cespugliatore e canto bene il rampo e non mi entra la zecca e non che. Allora butta benzina e metti fuoco quanto fottidino. È vero benzina, è vero. Fiammette, poi benzina e incendia. Io non lo posso fare, sennò no che arrivi rubo a casa di Dino. È un casino, è molto complicata la cosa lì. Va bene così. Voglio vedere un attimino una cosa, scusate. Allora. Caspita. Troppo. Ok. Caspita ti. Ho quel commutatore dell'antenna che mi sa che quando inserisco il commutatore, adesso ho l'antenna diretta, il cavo diretto che fa radio e antenna. Se metto il commutatore mi salgono le stazionarie a 1 e 3. Può essere, lo fa. Lo fa nelle migliori famiglie. Lo fa. Aspetta che abbasso, cazzo. Io. Perché così? Eccolo qua. Abbasciamo. Era manettone. Vedi tu, mi rifà scendere i vetri. No, me ne accorgo in ritardo. Sì, hai un ritardo. È un ritardo vocale. Franco, lo sappiamo che ci sei e stai ascoltando. Guarda che se non entri poi la pensione non te la godi. Vediti, non se la vuoi godere. No, faccio una curiosità e faccio capire. Eppure avrei voluto provare a alzare la vostra roba, vedi se così pesante. Catta non è la vostra, catta la massa di Nivà, raga. Meno male io c'ho un po' di forza. Se no guai. C'è pure chi si baula in un altro all'altro. Cioè, magari vuol essere così pesante, so. Non lo so, Anto, io i vostri non li ho mai presi, quindi non te lo posso dire. No, non sono pesantissimi, perché diciamo che non sono pesantissimi, diciamo che vabbè, voi avete attrezzatura diversa, però non, ma quanto mi riguarda 90 kg il baule più pesante, dai. 80-90 kg, cacchè di uno burro più di 100, cioè, più di 100 kg. Tania, cazzo, no, ma proprio la curiosità mi volevo, perché io ho lavorato per un'altra persona, ma non era così pesante la roba. Meno male, ripeto, che io c'ho un bel forza, cioè, e già ce la faccio. Cioè, se anda uno deboluccio, cazzo, ne va altro in anno. Cioè, è un bel pesante sono i nostri. Cazzo, quando carica un camion, si sente la cosa. Soprattutto che un Volvo di chi si manne, ma l'FL10, cazzo, che se sta azienda è una cosa assurda, cioè. Io preferisco, guarda, lavorare in prima struttura che con questa azienda. Che cazzo ti devi fare tutto quanto l'aier? Tutto quanto, tutto quei ragni, il viso da piazzare, le medie americane. Che ne ha travaglio. Boh, Antu, no, non so cosa dirti. Beh, comunque sono pesanti perché la forza deve essere la fa uno e basta, uno o due. Se invece i bauli pesanti l'avrebbero presi in quattro persone, non sarebbero stati pesanti. Quindi non è la colpa. Tutti li abbiamo le attrezzature pesanti sul lavoro, tutti. Però sta anche dividere i pesi, e non travagliare a macunazza, anche io, perché noi non lavoriamo alla macunazza, noi lavoriamo come si deve lavorare, cioè i bauli, invece di farne due pesanti, ne fai tre leggeri. Quindi dividi il peso, invece di prenderlo in due lo prendi in tre, e la schiena invece di buttarla via la preservi. Cosa vuoi ti dica tu? Purtroppo anch'io me l'ho rotta la schiena con i bauli pesanti, ma me l'ho rotta un po' di anni fa, me l'ho rotta un po' di anni fa la schiena con i bauli pesanti. Adesso non ho più voglia, quindi è meglio prendere un mezzo in più anche per, diciamo, gli addetti allo scarico e al carico dei mezzi, all'operatore, alla movimentazione, perché c'è gente che li chiama scarichini, però quelli sono addetti alla movimentazione. E anche loro hanno diritto di preservarsi la schiena, quindi è meglio fare tre bauli leggeri invece che farne due pesanti. Però Ruvatu è che deve andare un principale in sirada, che se il principale non vanno in sirada, se non si becca di guru verro, non lo sa, compreso. Ci deve andare lui, non mandare, deve andare lui. E allora così si capisce cosa vuol dire faticare. Invece se ti dici, vedo che in ufficio pure arrivi lì alla bella ora e non sai cosa vuol dire, ne puoi fare anche uno baule. Vabbè, dai. Vai, ti riprendi. È vero. Anche perché la medaglia poi non te la danno, Antu. E con l'andare del tempo, succede che oggi sì, hai una certa età, domani vai a crescere e i dolori iniziano a farsi sentire. Tu pensa, capì, che io sono addetto solo alle macchine operatrici, no? Per mia scelta, giustamente. Ma credimi, anche usare le cosce dell'escavatore, nonostante tutto sono idrauliche, cioè sono di quelle che tu da schiacci, sai com'è l'escavatore, no? Che devi solo fare destra e sinistra, mi stanno facendo male le dita, ma due dita in particolare della mano sinistra, che mi devo fermare e schioccarle, ma nello schioccare mi fa un bel male. Questi sono gli sforzi che facevo da ragazzo, che tipo reumatismi, e ora oggi mi fanno male. Lo so, ma Tino, tu conosci benissimo il ponteggio, tu lo conosci il ponteggio Laier, sì, il ponteggio a tubi, a innesto obbligatorio, lo conosci? E ne ho fatto anche. E tu considera che quelle strutture, quella sorta di strutture, sì, le costruiscono nell'ambito del settore dello spettacolo per sospendere gli impianti audio. e vengono in genere montati dai 3 ai 4 elementi in altezza, quindi sono 2,70 per 4, 2,70 per 3, quindi arrivi, qua ti posso dire, quando metti 3 elementi sei quasi al, facciamo 2 piani e mezzo di un palazzo, di una casa. Quando piazzi 4 elementi sei a 3 piani, diciamo, e di lì ti devi appendere, per almeno io, per quello che riguarda me, io mi appendo per appendere dei motori, con i quali si sollevano dei per i quali servono per sollevare l'impianto audio. Ma quei motori lì, appenderli vuol dire salire sull'aier, metterti le catene, metterti l'imbrago, metterti le cinghie, poi prendere, salire e rimettere le sicure, e così fare, se da una parte e dall'altra. Poi il bello è che quando devi smontare, devi salire anche la notte. La notte c'è umidità, ti devi al buio, ti devi adeguare, devi fare. E salire per un paio di volte si potrebbe anche fare, ma quando inizia a salire, io faccio con un bel poco di tempo, accendi, metti. Lo sai come ti fanno la schiena? Quelli ti buttano la schiena a terra. E anche il tipo di movimento che fai, come hai detto tu, io per esempio quando salgo lì che stringi le mani, che sali, dopo a fine stagione sembra così, ma le dita e anche il tunnel carpale ti fa male, caspita, il polso lo metti, lo stressi, quindi non lo so cosa vuol dire il male alle dita, perché poi quando ti fanno male le mani non riesci neanche, io a volte sembra così, è brutto da dire, però non riesco neanche a prendere la forchetta in mano, quello poco male. Adesso ci provo io, dai, che sono da poco fa che mi stanno chiamando. Sentiamo da fare il caso, dai, vai Antu. Ciao, sentiamo. Io già ti comprendo, già. Chissà gabbena sta tira sopra, mamma mia. Antu, però va fatto. E quanti anni che lo fai tu del lavoro? Questo è il secondo anno. Me ne parli dopo. Vabbè, adesso la roba è leggera. Prima, anche se facevo, anche se 15 anni fa facevo solo i fine settimana con un'altra struttura, con Francescuni, però prima aveva la roba pesante, Antu, prima c'era roba pesante veramente, ma roba pesante, tu pensa che una testa dell'impianto, un satellite, una cosa, noi avevamo i turbo sound, i THL4, ma quando ero ragazzo, quando andavo solo per passione con RGM Music, una testa pesava 92 kg e ne mettevamo 8 per parte, con le catene, con il frebar. Il frebar pesava 120 kg, solo il frebar. Già non credo, già, cazzo, mamma mia, già me lo ricordo, che allora ci lavorava mio padre e usavano gli audio performance loro. Era pesante, ma ne abbiamo anche due, ci sono rimasti in capannone di quelle, ma pesantimi. Tu pensa che le THL4 pesavano quanto le audio performance, hai fatto proprio un bel esempio, quanto le audio performance, con americane pesanti, e diciamo che adesso arrivi lì e trovi già i palchi fatti, noi avevamo già anche il palco da montare. Sì, a chi non so, a chi non va in capannone che sa roba, questa è una borsa, sono andato a fare la lirica in Piazza d'Italia, col ferro, con quell'aier, mamma mia, dal giorno l'ho odiato. Sì, tanto, purtroppo, è così, Ed è un problema, e prima si prendeva, si piazzava al palco, si montava l'americana, si montava nell'air e si montava tutto, poi finita la serata smontavi tutto quanto, anche il palco, poi andavi il giorno dopo e montavi il palco e tutto quanto, quindi non si dormiva, proprio zero, zero, zero, non si dormiva, due camion, due cose, e adesso è tutto più leggero. E va bene, va bene, va bene così, va bene così. È passato anche quello. Anto, ti devo chiudere un attimino, devo fare un attimino di un po' di bianco perché devo sistemarmi i cani e fare qualcosa, devo diciamo fare delle cose qua a casa. E se ci sei riprendo tra un quarto d'ora, tanto credo che entrerà anche Antonello Pompugno e Franco. Fai, non c'è problema. Ci sentiamo dopo. Eccomi. E qua. Eccolo qua. Allora, Antu. Com'è? Ma corsi ve ne stanno facendo in capannone? Non sai come il TTP fa. Hai imparato come il TTP. Ho avuto un mezzo... Oggi con Gesuino gliel'ho mezzo detto. Gliel'ho detto che se ma veramente di barche. Poi, cioè, se non mi fa vedere nulla, come faccio io a capire come funziona un'apparecchiatura? Me lo devo indovinare. Purtroppo no, cioè, se ti danno, non sai cosa fate niente, ti danno una cosa a me. Impara e tu devi cercare di capire cosa si vende, capito? Anche cose più banali. Meno male che io già c'ho un po' di gozo, se no. Però corsi no, io li vorrei fare, io gliel'ho chiesto tante volte. Se lo accetti qualcosa te la posso dire, eh? Lo accetti? Allora Antonio, partiamo dalla cosa più principale, diciamo dalla cosa più base dell'audio. Cosa è il suono? Tu sai cos'è il suono? Un'onda sonora, secondo te cos'è? Il suono. Un'onda sonora è un'onda che comprime il suono, cioè fa uscire il suono. Capito? È una cosa sicura, so che il woofer se non ha la tromba non spinge più di il suono, non te lo spinge più di tanto, so una cosa del genere. No Antonio, non stiamo parlando né di woofer né di tweeter né di casse. Il suono, l'onda sonora, la voce. Quando noi parliamo così, no? Cosa è? Questo è un corso, eh? Cosa è secondo te l'onda sonora, il suono, quello che noi emettiamo dalla voce, diciamo dalla nostra bocca, secondo te cosa è? La voce? No Antonio. Allora, il suono o l'onda sonora è un trasporto di energia. È una spinta di molecole d'aria, mi segui? L'onda sonora è il trasporto di energia, la spinta di molecole d'aria, la variazione di pressione d'aria, no? L'aria si muove quando noi emettiamo un suono, anche diciamo quando noi facciamo, io te lo sto mettendo proprio chiaro, cioè proprio semplificato, quando noi facciamo A, no? L'aria si muove, mi segui? Tu stai trasportando aria, ma non la stai trasportando da 0 a 100 metri, tu stai variando un movimento d'aria, mi segui? Quindi un'onda sonora è il trasporto di energia, cioè tu quando parli stai trasportando avanti e indietro l'aria che noi respiriamo, tu la stai trasportando avanti e indietro, e questo qua è lo stesso movimento che fanno le casse, no? Quando tu prendi un diffusore e lo fai suonare, trasporta l'aria, niente di più, capito? Quindi un suono, un'onda sonora è un trasporto, il trasporto avanti e indietro delle molecole d'aria, capito Anto? Sì, purtroppo se non hai, cioè, se non un libro in mano, se non l'hai studiato, è quello il problema. Se l'avessi studiato ti avrei risposto alla perfezione, perché a me se mi dai un libro lo capisco subito cosa c'è scritto, anche dicendomi la voce, se tu me l'hai detta voce, e questo non me lo dimentico, capito? Dov'è il punto? Perfetto, poi si parla di frequenza del suono. Quando tu prendi un kilohertz, no? Il kilohertz è il classico suono che fa quello lì, ha una frequenza, ogni parola che emettiamo dalla nostra bocca ha una frequenza, può essere 120 Hz, 3200 Hz, 6000 Hz, 400 Hz, quella è una frequenza, capito? Quelle sono le frequenze che noi emettiamo, e la frequenza non è nient'altro che la vibrazione che creiamo all'aria, cioè in pratica l'aria, quando noi emettiamo un suono, un'onda sonora, va avanti e indietro, però quest'onda ha anche una vibrazione, la vibrazione viene chiamata frequenza, quindi se noi facciamo avrà una frequenza, avrà una vibrazione più grossa, una vibrazione più accentuata, mentre quando noi facciamo un suono un suono più alto, la vibrazione va a essere più fine. Quindi abbiamo detto che un'onda sonora è il trasporto di energia e la frequenza è la vibrazione che ha quell'onda che noi emettiamo. Quindi Anto, quando tu senti un autoparlante, un basso, un woofer, come dici tu, un woofer suonando che eroga una bassa frequenza, quella è un'onda con un'onda, quella è un'onda che prende e ha una vibrazione più accentuata, infatti scende di Hertz. Mi segui? Noi prima quando mettiamo in linea l'impianto metterò quei suoni, quelli, penso che anche voi lo mettete, invece noi è capitato con l'acustica di lavorare con quello lì, faceva un altro suono, faceva per allineare l'impianto. Ho capito quello che mi hai detto, ho capito tutto. Ok, quindi l'onda sonora cos'è? Uno spostamento di aria, mi hai detto. Bravissimo, è uno spostamento d'aria, la spinta dalle molecole d'aria che vanno sia avanti che indietro, non è uno spostamento che fa, che, diciamo, non sposti 100 metri, è uno spostamento che poi ti dirò quanto dura questo spostamento, mentre la frequenza cos'è? La frequenza mi ha detto che la frequenza può essere, mi ha detto 20 kHz. La frequenza è il numero di vibrazioni che hai nello spostamento dell'aria. La frequenza è il numero di vibrazioni che hai in quello spostamento d'aria. Una frequenza, cosa ti posso dire? Un kilohertz, per fare un ciclo completo, per esempio tu dici a un kilohertz, per fare un ciclo completo che va da 0 dB e sale a più 12 dB, poi riscende a 0 dB e scende a meno 12 dB e poi va di nuovo a 0, quello è un periodo completo e si chiama onda sinusoidale. e dura un millisecondo, e dura un millisecondo, quindi quando tu fai un ciclo completo di una frequenza di un kilohertz, no? Che fa tu, segui? Non devi guardare la durata, devi guardare il periodo di frequenza, e dura un millisecondo che va da 0 dB a più 12 dB, poi scende di nuovo a 0, poi va da meno 12 dB e poi sale di nuovo a 0. Quello è un ciclo completo e dura un millisecondo. Quindi abbiamo detto che un'onda sonora è il trasporto di energia che viene accompagnata dalla frequenza, che sono le vibrazioni che l'aria, diciamo, non le vibrazioni che l'aria, le vibrazioni che quella frequenza, che quello spostamento produce. E noi stiamo prendendo in esame il kilohertz, che è che per fare il suo ciclo ci mette un millisecondo. Ci sei? Sì, ci sono. Anche se non ci sei, dai. No, no, ti sto ascoltando, ti sto ascoltando. Quindi. E questa è già una cosa, quindi mi ha detto, quindi abbiamo detto, cos'è un'onda sonora? Spostamento d'aria. Bravissimo, che viene accompagnato da cosa? Cazzo, sono intrippato. Porco mondo, mi sono intrippato. Cazzo, non ho detto adesso. Allora, l'onda sonora è uno spostamento d'aria che viene completato dalla frequenza, che la frequenza è la vibrazione di quel trasporto di energia, che dura a un kilohertz un millisecondo nel ciclo completo, che va da 0 dB e sale a 12 dB, poi riscende a 0 dB e va a meno 12 dB, poi risale a 0 dB. Quello è un ciclo completo che dura un millisecondo. Poi c'è l'ampiezza, che indica l'energia istantanea, capito? Che tu puoi prendere e puoi decidere quanto far durare quell'onda, cioè il tempo che ci mette da 0 dB a più 12 a 0 e poi da 0 a meno 12 dB a 0 dB. Capito, Antu? Questi sono, adesso ti ho fatto un piccolo, che poi potrebbe essere anche troppo noioso, e interrompiamo così, dai. Questo è l'ABC, cioè la teoria base, che si deve sapere quando si fa diciamo, questo lavoro. Quindi, te lo ripeto, l'onda sonora è il trasporto di energia che viene accentuato dalla frequenza, e la frequenza è la vibrazione dell'aria che viene calcolata con un'onda sinusoidale che dura, che la durata di quest'onda a un kilohertz è di un millisecondo, che va da 0 dB a più 12, a 0 dB a meno 12 dB e a 0. E quest'onda si può modificare in base all'ampiezza, che indica l'energia istantanea. Quindi, ma di questa qua io ti ho detto giusto nulla, non ti ho detto niente, perché queste qua sono in quello conforto a quello che c'è da studiare è zero. Ci compri pa? Ma non esiste un libro o qualcosa che posso andare a cercarmelo? Questo Antu, questo qua lo puoi cercare nei libri. E sono cose che nessuno ti insegna. Te le devi studiare, questo qua lo trovi nel nel libro dove trovi anche la legge di Ohm e tutte queste cose, lo vendono il libro, però sono cose che insegnano alcuni corsi, quindi. Ma queste cose che ti ho detto non lo sanno neanche i funici, ci sono c'è gente che si spaccia per funico e non lo sa, quindi per tecnico, per ingegneri, forse questa qua è più roba da che sanno gli ingegneri, che, ma non è che lo dico perché io voglio vantarmi, che voglio, però è tutta roba che ho studiato, anche se a volte quando dicono ma tu fai, io faccio perché ho roba che ho studiato, che ho capito, che ho rubato nell'ambito lavorativo, e quando a me mi parlano di autoparlanti io a volte rimango così, non so, quando dico ma tu lo sai cos'è un suono, tu lo sai quando parli cosa emetti, no, non lo so, e allora non possiamo neanche parlarne, prima studi e poi ne possiamo parlare. Qua, però Antu, io ho voluto far capire cosa vuol dire nella minima parte fare audio. Con questo dai, un altro giorno faremo un altro pezzettino. È entrato Franco. Vai Franco, buonasera. Stavo facendo un piccolo questo con Antonio, e piuttosto di parlare di fesserie e di cose così abbiamo parlato di qualcosa di teoria. Vai Franco, buonasera. Buonasera Gavino, buonasera Antonio. Mi ascoltate, pensavo che per entrare bisognava prima studiare e dare un esame, invece a quanto pare va bene così. Ok. Rilancio il mic Antonio e poi lui fa girare. Ciao, avanti a voi. Antu. Oh, ciao, buonasera. Buonasera, ben sentito Franco. Cappa. Mi stavo parlando di. Che a me piace molto, tra l'altro, piace molto l'argomento. E se ne trovo l'occasione mi faccio un bel corso, ma. Perché ogni tanto mi esce sempre anche corsi online, dico queste cose qua. Cioè corsi non online, devi andare là, devi andare. Solo che non ho la possibilità adesso. L'avrei fatto un bel corso così, perché è bello, interessante molto. È molto interessante. Avanti capi. Va bene, io sono pronto all'interrogazione, ciao Franco. Ciao Tino. Dai, dimmi cos'è, io, cos'è il suono, Antu, dai. Spavento d'aria, tra l'altro appena adesso. Guarda, di tutto quello che ho ascoltato non mi ricordo manca, quindi sono già peggio di te io. Io so che il suono è la tromba della macchina. E il clacson. È un suono. Però, ragazzi... Certe cose bisogna anche saperle. Sì, se fossi stato un tecnico audio, ma può darsi. Siccome non è un argomento che gesticolo nel mio mestiere, no. Io il suono per me è il rumore del motore del Caterpillar. Oh, quella è una sinfonia. Figurati. Ma con un rumore intendivo era elettrico. Sì. Quello del rullo quando compatta il materiale, quello della terna, quello del grede, insomma. Posso dire che a furia di farlo questo mestiere mi sta prendendo un udito che sono. Se sento difetti me ne accorgo subito. C'è qualcosa che non va sull'audio. A furia di sentirlo, a furia di sentire volumi alti e cosa. Cioè, stavo avendo l'orecchio molto, molto fine. L'udito. L'udito molto, molto fine. Adesso l'ho detta la serragona. Sì, è vero. Beh, poi ti accorgerai anche dei difetti sonori, se ci dovessero essere. È così ragazzi. Adesso ho letto un link che dice: se ti dimezzo lo stipendio ti ribelli, se ti raddoppio tutti i prezzi ottengo lo stesso risultato e non fai un emerito K. praticamente quello che hanno fatto a noi, se ci pensiamo, no? Nel senso che il principale, se ti dimezza lo stipendio, aspetta, fra, ti ribelli, nel senso che non vuoi, però se raddoppia tutti i prezzi del mangiare, del bere, della benzina e balle varie, e non puoi farci niente, è la cruda realtà. Dimmi, fra. Ah. No, niente, stavamo, no, adesso a parte le cose, stavamo parlando con Antonio poco fa, abbiamo visto che eravamo, diciamo, in due, gli stavo dicendo qualcosa. Purtroppo sono cose che bisogna sapere, perché altrimenti no, cioè bisogna sapere, come hai detto tu, nell'ambito lavorativo, quindi giusto un paio di frasi. Ah, tu senti il clacson perché quando prendevi e finivi di caricare facevi bb, e quindi l'autista sapeva che era pronto il carico, doveva scendere e chiudersi i teloni. Lo sappiamo quello. Facevi bb, così è. No, non è che quello facevo, mollavo tutto, me ne andavo e andavo in un altro remorchio direttamente. Se lui era dormito erano cavoli suoi. Non lo svegliavi neanche? No, per carità. Prima che da Buri svegliava la Bassemanna a Buri. Esatto, sì, no, non voglio disturbare i tuoi incubi peggiori. Ui. Vabbè, al porto, dai, quando ero ragazzo al porto c'era un peschereccio, si chiamava il Battelliere. Il Battelliere era un peschereccio un po' antico, e per fare la marcia indietro c'era il motorista, giù, che era sotto il ponte, ai comandi del peschereccio, e il comandante da sopra, dove c'era il timone, prendeva e suonava due colpi, era andare avanti, e un colpo era andare indietro. Quindi quando il comandante faceva pipì, il macchinista prendeva quello che era sotto, dove c'è il motore, andava a marcia avanti quando ormeggiavano, no? E con un colpo andava a marcia indietro, quindi si invagliava nei guai. Certo, erano guai. No, da noi all'inizio lasciavano il remorchio, il trattore attaccato al remorchio, no, lasciavano. E io quando mettevo la cassa, siccome la cassa, ogni cassa pesava 1200 kg, noi era bogo, a volte la mollavo di colpo, allora mettevo diventa obbligatorio. Poi sono diventati furbi, arrivavano, aprivano il remorchio, sganciavano il trattore e si allontanavano un metro, si allontanavano, in modo che quando caricavi non li disturbavi quando dormivano, capito? Sì, e facevano bene, magari facevano 10-12 ore guidando, perché prima non c'erano tutti questi privilegi di adesso, che dopo 4 ore si devono fermare, prima viaggiavi e vabbè, fra, dai. Anche quello è un lavoraccio. Invece Tino gli tira i colpi. Tino gli tira, gli scaffiato un pezzo alla cabina con la benna, così è te. Allora io gli busso col dente del cavatore, gli busso la cabina al tipo, aiuto, vai avanti. C'è quella sensibilità. Con gli anni ho rotto qualche vetro, così è. Certo. Fra, l'ho visto quello che mi stavi dicendo ieri, con la scritta sotto Iesu e balle varie. L'ho visto. Capo. Sì, è bello comunque. Ah, sei tutto acciaccolato, ma l'hai visto bene. Tu non hai ingrandito, è tutto sbeccato avanti. È una radio da vecchia, io non so se... magari se fosse stata in ottimo stato ti avrei anche creduto, ma l'ho visualizzata bene. Sì, pensavo stavi dicendo del 7009. No, quello è tutto messo male, l'ho guardato anche io più bene, è tutto messo male. Allora, poi è vecchio, no, non ha tu, non ha niente, non lascia perdere, non è una radio che per quel prezzo lì no. Tu pensa che io ho preso con 50 euro in più, il 27, il 25 27, no, il 27 25 della Icon, ma è 50 volte più superiore di quello. Sì. No, ma infatti ho deciso di prendere, se lo trovo adesso, l'ho chiamato oggi ma non mi hanno risposto, vuol dire che sono impegnati. Di nuovo Iaisu, il 7009, è nuova banda, però attenzione, c'ha, anche se è monobanda non mi interessa quello lì, c'ha 50 watt in V e 45 in U. Sì, va bene. Quello, lo conosco anche quello lì, perché ce l'avevo già e me l'ho venduto quello lì, ho fatto un errore, nuvo raga. E vabbè, gli errori si pagano. Vabbè, si può sempre prendere. Certo che si può prendere. Adesso ci provo domani se mi rispondono, perché quelli lì radiofrequenza. Va bene, avanti Antonio. Antonio si è addormentato. Infatti la voce era troppo bassa poco fa, per poco non capivo cosa diceva. Avanti Gavri. Antonio l'ha addormentato il mio discorso, fra. Ad Antonio l'ha addormentato il mio discorso. La mia rivenuzione di teoria. Vabbè, dai. Più che addormentato l'hai attambainato. Perché attambainato? Perché secondo me Antonio non è che ci capiva tanto quello che gli stavi dicendo. Lo so, fra, però se uno è appassionato, anche queste cose deve saperle, mi segui? Certo, specialmente quando si tratta delle cose del suo lavoro. Esatto. Quindi ci sono cose divertenti e cose noiose, quindi bisogna sopportare tutto. Avanti Tino. Ma io più che passione, io penso che lui lo faccia per necessità, magari poi la passione viene pian piano con l'andare del tempo, ma non lo so, io sino a pochi anni fa, ma credetemi, io faccio l'escavatorista dall'89 e sino a 5 anni fa lo facevo con una certa tristezza addosso che la metà bassa, credetemi. E già da adesso, già da 5 anni fa, dai, da 5 anni che ho iniziato a farlo con, non dico con amore, però con più passione, dai, più passione tra virgolette, ma perché ho visto nell'andare avanti delle cose che anni fa non c'erano, quindi vuoi che sia un po' per il comportamento dei colleghi, vuoi che sia per la gratificazione monetaria e quant'altro, lo sto facendo con più voglia, ecco, però ritornando al discorso di Antonio, la passione viene pian piano, se hai la necessità è la passione è diversa. La passione ti aspetta un attimino. Ebbene, cosa è successo in Oga? Cali di potenza. La passione, scusate, riprendi fra. Cappa. No, ma più che altro io la chiamo, io guarda, ti dico una cosa, quando ho iniziato a me piaceva veramente fare il carrellista. Poi